Amici sportivi, buonasera. Buonasera. Gentili signore e signori, a voi tutti buonasera. Buonasera. Gentili signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Signore e signori, buonasera. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora Heinz, ti presento Diego. Senti, perché non gli fai una domanda? No, giochiamo al calcio noi, non siamo giornalisti. Senti, domande dopo, ma un terreno così pesante, chi è favorito e chi è sfavorito secondo te, visto che le caratteristiche tecniche, due grandi campioni? Ma io credo nessuno è favorito, perché il Napoli è una squadra forte. Sarà una partita difficile per tutti e due. Penso lo stesso, perché forse favorito... C'è lui per la forza che ha. Senti Diego, una domanda a Rummenigge: se l'avessi incontrato fuori dallo stadio, cosa gli avresti chiesto? Che non giochi. Vabbè, auguri. ancora appena 40 secondi dall'inizio del secondo tempo, punteggio immutato, sempre 0-0. Il Napoli ha continuato, ha ripreso ad attaccare subito al fischio d'avvio della ripresa, si è portato ancora sotto la porta, sotto l'area dei rigori della formazione di Mattia. Tentativo di scambio di scusa Enrico, l'Inter a picco, la Fiorentina in gol per la terza volta con Passarella su punizione decretata da Pieri esattamente al secondo minuto della ripresa. Batteva Passarella girando la barriera e collocando la palla nell'angolo alto alla destra di Senga, pertanto al secondo minuto 3-0 per la Fiorentina di Enrico. E Nessandro, la fisionomia dell'incontro non è mutata, intanto qualcuno deve intervenire. Dall'Olimpico Roma in vantaggio al sedicesimo, un tiro improvviso, un gran diagonale da molto lontano da sinistra di Nela. Siamo quindi adesso al diciassettesimo, la Roma in vantaggio per 2-1 a della linea. Bene, vai pure Enrico Ameri. E d'accordo, mentre la fisionomia dell'incontro, vi dicevo, non è mutata, continua ad attaccare sempre il Napoli, repliche della Juventus molto timide, comunque subito la Juventus rientra nella propria metà campo. Benissimo, allora sugli altri campi interventi molto più brevi, grazie, vai pure Enrico Ameri. Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione, piede sulla palla, fece parte tiro, rete! Magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Il Napoli è passato in vantaggio proprio a circa 27-28 minuti dall'inizio del primo tempo e conduce così per una rete a zero. Maletta, ho visto in piazza Spromonta comprando 400.000 lire di cocaina. Figurati. È stato visto comprando. Ma chi? No, rispondo, qui bisognerà querelare. Sì, ha ragione. Allora avete preso il numero di telefono di questo? L'ha preso sicuro. Colombo! Dai, via, non perdiamo queste cose. No, momento, vai, no. Oggi ho parlato a lungo del pericolo che c'è di questi tempi. Col tipo delle telefonate mi ero raccomandato. Sei stato preso in Italia? Sì. Speriamo. Meno male. Ecco, 4 minuti dopo c'è stata la pubblicità. Colpo di genio di Maurizio. Allora, vediamo. Anzitutto una notizia è che il signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato. Perché 4 minuti. Siccome abbiamo i telefoni controllati, abbiamo già mandato la polizia a casa di questo signore che è stato arrestato. Dopo 4 minuti conto il processo che ha detto, già fatto? Documentare. Vabbè, intanto adesso è in galera. Quant'è? In galera già. Quanti anni ha preso? Maurizio? Con le telefonate, tutti i telefoni sono controllati. Immediatamente scatta un controllo con la polizia che arriva a casa e via. Subito! Thank you. Inter Milan con Sandro Ciotti. Sandro, tu ti trovi nello stadio che è stato per ultimo teatro dell'ennesimo episodio da sconsiderati, con tutte le conseguenze che conosciamo. Come si sta comportando il pubblico e poi naturalmente gli altri particolari sul gioco? Ma per il momento in maniera esemplare, del resto c'è stata una simpatica manifestazione prima dell'incontro di cui è stato protagonista il gruppo folkloristico della Valtellina. Sono saliti sul podio di San Siro per salutare gli spalti dell'impianto milanese alcune grandi firme azzurre della neve come Alberto Tomba e Cotelli, e questo naturalmente ha contribuito al clima di distensione di cui sta fruendo questo derby. Sembra una citazione di Marotta, ma è la verità: Milano non fa freddo, il cielo è coperto, ventilazione modesta, terreno perfettamente agibile, direzione arbitrale affidata all'Anese, con il quale collaborano i guardaline Gava e Pucci. Prima dell'incontro, appunto, esibizione di questo gruppo folkloristico della Valtellina, che ha riscosso i consensi del pubblico. Nell'Inter, ricordiamo, sono indisponibili Serena e Matteoli, mentre il Milan deve rinunciare a Franco Baresi e a Virdis, che è comunque in panchina. Ne deriva che i rossoneri sono in campo con Giovanni Galli tra i pali. parlato con un romano? Mi sono fatta anche una tipa di Roma. Scusa che sono anche magari un po' volgare, mi sono fatta anche una tipa di Roma. Cioè proprio... c'ho gli amici e tutto, gente normale, però... cioè, capito, loro sono chiamati confrontone e vandalismo, capito, perché Milano è odiata, sai, la Roma capitale, non è giusto, tante storie, allora è un casino. Ma come nascono questo tipo di contrapposizioni, secondo voi? Generazioni, secondo me. Aspetta. Boh, tante cose. Anche, non so, a sentire i nonni se la menano per quelli che stanno giù là, che non lavorano, sai, tutte queste storie. No. Voi ci credete? È vero. Perché non pagano le tasse. Tu che hai gli amici romani, non lavorano i tuoi amici romani? Lavorano, però è gente... cioè... fanno tutte storie malate, boh, non so. Su 10 lavorano 6 e gli altri 4 stanno a casa. Invece noi bene o male lavoriamo tutti. Cosa vuol dire quello striscio? Niente, andiamo a Roma e tifiamo Lazio. È naturalmente Inter. Anti-Roma, Lazio. Forza Lazio. Ma voi siete contro la squadra o contro la città? Contro tutto. La vigilia si pensava che dovessi giocare in attacco con Olivares e poi invece hai giocato con Ugo. Tu cosa ti aspettavi? Beh, questo il mister l'ha scritto su un foglio. Io mi pensavo che non giocavo quando ho visto Ugo avanti. Poi il mister ha detto giocate insieme, giocate tranquilli, statevi tranquilli, che stasera fate bene. Ci siamo riusciti, penso. Quando hai agganciato la palla con il tacco, in quel momento che cosa hai pensato? Ora faccio gol. Io non ho pensato a niente, ho proseguito la mia azione, con la testa me la sono portata avanti, Poi ho dribblato Georgatos e ho calciato in porta con la benda agli occhi. Dopo il... andava la palla. Dopo il gol hai avuto un'altra occasione, hai sbagliato, ti sei buttato per terra quasi per disperarti simpaticamente. Ero molto disperato, io mi pensavo che la partita andava non male, malissimo. Quanto eri riuscito a dare nel corso della partita? No, non mi sono mai arrabbiato, sia quando mi ha sostituito che quando non mi ha fatto giocare. Sono sempre stato a disposizione perché penso che ancora oggi io personalmente devo ringraziare il mister che a me dà tanta fiducia e lo ha dimostrato. Posso fare una domanda a Francesco? È un nuovo collega questo, un nuovo giornalista. Eh? Sì, che percentuale stai, Francesco? A bucchi. No. Pensa alla TV, ha già negli occhi calci di rigore, sì, ma il casello non arriva mai, lui vede il gol lo stesso, lungo per la Perché parla del giocatore del Chelsea? È perché è un modo furbo di fare la stessa domanda di lui. Sì. Sì, sì, sì. Ma io non sono Pirla. Nella fretta di Pagliuca c'è tutta la determinazione della squadra. Nella fretta di Pagliuca c'è tutta la determinazione della squadra. Nella fretta di Pagliuca c'è tutta la determinazione della squadra. C'è tutta la determinazione della squadra. Nella fretta di Pagliuca c'è tutta la determinazione della squadra. Buon pomeriggio, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano trasmettiamo Benvenuti ai Mondiali, cerimonia di apertura della 14ª Coppa del Mondo di Calcio. Ripresa televisiva di Luciana Veschi. Vi ricordo alle 17:45 l'incontro Argentina-Camerun. Telecronista Bruno Pizzul, regista Giancarlo Tommasetti. Vi ricordo che il programma è trasmesso in stereofonia per le zone già raggiunte da questo servizio. Buona visione. Stiamo partendo, silenzio. To be number one, we need. se non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Giubbottino tutto d'oro, ci colleghiamo velocissimamente con San Siro dove c'è Massimo Buscemi. Buongiorno Massimo. Buonasera Massimo Alfredo Giuseppe Maria. Eccolo là. Mi trovo alla Scala del Calcio, allo stadio di San Siro, sì. Attualmente nome di Meazza, sì. Sito in via Piccolomini al numero 5, 2151, sì, Milano. Milano, è lo stadio San Siro, Massimo, è lo, sì, stadio Alfredo San Siro. Giuseppe Maria. Sì, no, era già stadio di San Siro, sì. Ora si chiama stadio Meazza. Benissimo, volevo soltanto chiederti come sono le condizioni del campo. Allora, il campo è in perfetto stadio, è stato rizzolato interamente nel mese di gennaio 1995 con, sì, 19.250 zolle. No, io volevo sapere se il terreno è buono o no. È in ottimo stato, ecco, sì, no, grazie anche alla particolare attenzione dei due operatori botanici che rispondono al nome di Steve Taylor e di Davide Frigeri. Sì, ma non esageriamo, ma come si fa a dire questo? Che ne sai? Soffia un vento, sì, di circa 2,5 km all'ora. Mettiti, questa turbolenza, sì, si è riscontrata. Turbolenza, sì. 2,5 km. Io sono tassonomico. Tassonomico. Ed, sì, è riscontrato nell'anemometro. Va bene. L'anemometro. All'anemometro segna, sì, 2,5. Che temperatura di 19 gradi, gradi. È un'umidità del 50%. E la famiglia? Bene, la sua? Grazie altrettanto. Ci vediamo più tardi. Grazie, grazie molte. E adesso quelli che il calcio. Quelli che hanno un figlio che suona come Mozart, ma continuano a portarlo da Maldini perché gli faccia un provino, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Quelli, ma quelli che Senizzola è il presidente della Lega, Bossi chi è? Quelli che io sul gioco figurato praticamente sono a posto, no? E che non mi riesce di concretizzare dalla fascia in gol. Fai conto Savicevic. No, ma viene il momento anche per me, no? Perché io sarei a posto. Quelli che piuttosto che nascere interisti fanno abortire la madre. Quelli che se non c'è più il calcio è colpa dei comunisti. E quelli di Stanza Guantanamano intesi come Marines, credono che Bossi sia il libero della Polonia. Quelli come Angelo Anquilletti. Quelli che Ronaldo, come dice il mio amico Paolo Rossi, è un tedesco pelato con l'orecchino. Quelli che Alvaro Cino Recoba non è un giocatore di calcio, è un patriot. C'è un missile, no? Quelli che piangono quando sentono un del Brasile. Quelli che Mattarese dicono che è stato l'ultimo allievo di Renato Curcio. Poi bisogna che qualcuno glielo dica, Renato Curcio. Quelli che il grande Baresi si è operato da solo. Infatti ha giocato. E come? Anche Van Basten si è operato da solo. Solo che ha sbagliato ginocchio. Quelli che si scoprono che Leonardo, appena acquistato dal Milan, e UEA, Berlusconi la lascia di dormire sulla moquette, vado sempre a San Siro, però al trotto. Quelli che hanno visto i mondiali nel Montana credendo che fosse un giro di parole. Quelli che l'hanno visto nel Nebraska perché faceva più ridere. Quelli che la squadra si fanno allo spogliatoio. La squadra si fanno allo spogliatoio. E dopo quando vieni fuori non sei più come quello di prima. Per bene che ti vada, cantiamo uno dei Bee Gees. Meglio adesso che sei un mito, da domani sarai un peto.